Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ci sono cittadini abruzzesi che hanno il problema dell'identità, nel senso che non hanno più documenti, mentre ci sono non abruzzesi che si mettono in fila, a rotazione, per accaparrarsi il maggior numero di generi distribuiti dai volontari. Un problema, quello del riconoscimento veloce delle persone, che con un computer portatile connesso a internet sarebbe risolto e con altri vantaggi come quello di individuare subito i furbi, per usare un eufemismo. All'anagrafe hanno i nostri dati completi di foto. Perché allora non interrogare il database con nome e cognome della persona in fila di fronte all'incaricato affiancato da un carabiniere? Quando sul computer in pochi secondi si vedranno foto e descrizione della persona in attesa, sarà facile verificare e anche stampare un documento provvisorio di identità, valido per altri servizi del campo. Con un solo gesto si potrebbero fare tre attività: controllo, censimento, erogazione di documenti. Qualcuno dirà che i dati possono essere andati distrutti, vero, ma con un database centralizzato e grazie a internet non dovrebbero esserci problemi. In base al documento programmatico di sicurezza obbligatorio, dovrebbe esistere una copia aggiornata al giorno precedente quello del tragico evento, depositata in luogo sicuro e diverso da dove i dati vengono usati. Perché non usiamo la tecnologia e i dati che abbiamo? Perché ogni volta rifacciamo elenchi, liste e quant'altro solo su carta, a mano e da zero? I dati così raccolti devono essere nuovamente inseriti e lavorati. Costi, costi e ancora costi. Forse le risorse per questi servizi amministrativi potrebbero davvero essere impiegate meglio. Elena. Sono un architetto di esperienza quasi ventennale e in tutte le trasmissioni ho sentito molte cose sul terremoto, sulle costruzioni antisismiche e spesso si sono dette cose superficiali e inesatte. Soprattutto ho sentito molti politici del PD cercare di ridicolizzare qualsiasi tentativo di semplificare le procedure edilizie, strumentalizzando i danni subiti dagli edifici nel terremoto appena accaduto in Abruzzo. Ma nessuno ha chiarito la situazione normativa che i tecnici sanno e che stranamente nessuno dice. L'edilizia si muove su di un doppio binario. Da una parte ci sono le regole urbanistiche, stabilite di volta in volta da regioni, province, comuni, eccetera, nei vari piani urbanistici, che riguardano le altezze, le cubature ammissibili, gli standard per i parcheggi e le dotazioni pubbliche. Queste sono molto farraginose, diverse da comune a comune, variate con leggi nazionali, regionali o comunali, e su queste ben venga qualsiasi semplificazione, se mai sarà tale. Dall'altra parte ci sono le regole tecniche, che sono le norme tecniche delle costruzioni e delle quali nessuno ha chiesto la semplificazione, anche perché sono state appena approvate. È importante sapere che la sopraelevazione di un piano dell'edificio, anche se si arrivasse a poterlo fare in deroga ad una normativa urbanistica che lo vieta, passa attraverso la progettazione, che prevede la verifica statica di tutto l'edificio preesistente. Questa è la dimostrazione che le strutture, anche dopo la sopraelevazione, mantengono dei parametri di carico che rientrano nelle tolleranze della normativa. Se così non fosse, deve essere consolidato l'edificio sottostante. E se per qualche motivo questo non si può fare, vuol dire che non si può sopraelevare. Punto e basta. Il progetto strutturale va depositato al Genio Civile, dove rimane, per sempre, ad inchiodare il progettista che ha redatto il progetto strutturale. Quindi è bene che questo venga spiegato, senza fare sterili polemiche, e per finire, ben vengano dei controlli seri sull'operato dei tecnici, così chi si occupa di altre cose e fa questo come secondo lavoro, smette di farlo e il settore ne guadagna in credibilità e rispetto. Lettera firmata. Mi sono arrabbiata leggendo l'intervista a Giuliano Amato, che per la ricostruzione dell'Abruzzo propone una nuova imposta, per evitare che lo Stato aumenti i suoi debiti. Già, gli italiani danno, sempre e comunque. Sarebbe ora che anche i parlamentari mettessero mani al portafoglio. Meno tre stipendi, tra senatori e deputati, e l'Abruzzo è ricostruito. L'Italia tutta già paga accise di cose che non hanno più senso. Dove vanno i soldi? Paghiamo anche l'IVA sulle accise della bolletta del gas, imposta sull'imposta. Che loro vendano qualcosa. Amato rinuncia a qualcosa anche lui. Veramente, per uno Stato che si rispetti, è ora di piantarla, di fare appello alla solidarietà della gente. Margherita. fare alcune precisazioni sull'8x1000. La legge istitutiva prevede che venga distribuito non in base alle scelte effettivamente espresse, ma sul totale dell'8x1000 IRPEF. Le istruzioni dei modelli fiscali infatti dicono: la mancanza della firma in uno dei 7 riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono devolute alla gestione statale. Ogni cittadino che presenta la dichiarazione dei redditi può scegliere la destinazione dell'8x1000 del gettito IRPEF tra 7 opzioni: Stato, Chiesa Cattolica, Unione Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Unione Comunità Ebraiche Italiane. In realtà, nessuno destina il proprio gettito. Il meccanismo assomiglia di più ad un gigantesco sondaggio d'opinione, al termine del quale si contano le scelte, si calcolano le percentuali ottenute da ogni soggetto e in base a queste percentuali vengono poi ripartiti i fondi. Come se non bastasse, la mancata formulazione di un'opzione non viene presa in considerazione. L'intero gettito viene ripartito in base alle sole scelte espresse. Qualora il contribuente non fosse tenuto alla presentazione della dichiarazione, può comunque effettuare ugualmente la scelta della destinazione dell'8x1000 consegnando il CUD in una busta chiusa agli enti preposti alla raccolta, in un ufficio postale, banca, eccetera. Come vengono spesi questi soldi? Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, tale voce era nata come meccanismo per garantire il sostentamento del clero, ma è poi diventata, percentualmente, sempre meno rilevante. Parrebbe infatti che la Chiesa Cattolica prediliga a destinare i fondi ricevuti dallo Stato alle cosiddette esigenze di culto, finanziamenti alla catechesi, ai tribunali ecclesiastici e alla costruzione di nuove chiese, manutenzione dei propri immobili e gestione del proprio patrimonio. Ovvio che non vedremo mai alcuno spot su queste tematiche. Ai tanto strombazzati aiuti al terzo mondo, cui è dedicata quasi tutta la pubblicità cattolica, va solo l'8,6% del gettito. Lo Stato è invece l'unico concorrente per l'8x1000 che rifiuta di farsi pubblicità. Il governo dedica alla gestione dei fondi di pertinenza statale una sezione del suo sito internet. La Chiesa Valdese rifiuta di destinare i fondi ottenuti alle esigenze di culto e al sostentamento del clero. Una parte dei fondi viene utilizzata per il sostentamento dei pastori. Per quanto riguarda le comunità ebraiche, i fondi sono utilizzati per solidarietà sociale, attività culturali, restauro patrimonio storico, sostegno ad attività giovanili, strutture ospedaliere per la cittadinanza, cultura della memoria, lotta a razzismo e pregiudizio. Le chiese avventiste rifiutano anch'esse di destinare i fondi ottenuti alle esigenze di culto e al sostentamento del clero, mentre le Assemblee di Dio dedicano i fondi esclusivamente alle missioni e alla beneficenza. Lettera firmata. Da 50 anni vivo in riva allo Stretto di Messina e per tutto questo tempo ho ascoltato sempre gli stessi discorsi: diminuire il gap tra nord e sud. Innumerevoli sono stati e sono i dibattiti, ma la costante è sempre la stessa. Per percorrere una distanza di 350 km, Trapani-Messina, occorre un tempo medio di circa 5 ore di auto. Se lo stesso percorso si fa in treno, il tempo quasi si raddoppia. La distanza tra Roma e Milano, oltre 500 km, si percorre invece in meno di 4 ore. In Sicilia l'acqua viene erogata una o due volte alla settimana. Quindi se vuoi farti una doccia, o aspetti il giorno dell'erogazione, o paghi e riempi la cisterna. Il precedente ministro dei trasporti, alla sua prima apparizione, esternava il proprio pensiero sul ponte. Il ponte è inutile e dannoso e non va fatto. Trovo veramente singolare che le sue prime attenzioni venissero rivolte a cosa non andava fatto. I programmi TV sulla mafia si susseguono all'infinito, ma credetemi, le manifestazioni di piazza non servono a nulla se non a dare lo spunto alla trasmissione televisiva e ad alimentare le chiacchiere. Un fatto è certo: la mafia ostacola il decollo dell'economia al sud, al pari di coloro che ritengono inutile la realizzazione del ponte, che se venisse costruito sarebbe il primo forte segnale per il sud. Tutte le civiltà hanno prosperato e sono morte in funzione degli scambi commerciali. Questi scambi erano fiorenti in quelle città dove il transito era facilitato dalle comunicazioni. Ricordo che Roma ha civilizzato il mondo con la costruzione delle strade. Infine ricordo, a chi considera il sud come zavorra, che prima dell'unificazione d'Italia, il Banco di Napoli aveva un attivo di 700 milioni trasformatosi in passivo per dare vita alla Banca d'Italia. Lettera firmata. Osservo, caro dottor Fabi, che in Italia per ogni fatto tragico si usa dire con forza e certezza mai più, sapendo benissimo che la realtà offrirà ancora sicuramente gli stessi lutti, per gli stessi motivi. È così per i morti sul lavoro, per alcune vittime della strada e ora per i terremotati. Penso a chi è morto sotto le macerie e penso a coloro che ora osservano l'Abruzzo, inconsapevoli di essere le future vittime del futuro terremoto che inevitabilmente ci toccherà prima o poi in quest'Italia ballerina. Penso a quanti vivono in zone a grande rischio, ai bambini vestiti coi grembiulini che ogni mattino siedono sui banchi sui quali possono crollare soffitti e non necessariamente per scosse sismiche. Penso a quanti credono di vivere in case costruite a dovere e sono in pericolo anche a fronte di vibrazioni non particolarmente forti. Persone che credono, come credevano molti cittadini dell'Aquila, di avere una casa sicura dove vivere sereni. Ora osserviamo la tragedia, ma siamo incapaci di evitare le prossime. O crede che veramente si andranno a revisionare con serietà le scuole, gli edifici che stanno su solo perché non tira il vento? Crede che si avrà rispetto dei cittadini che fatalmente moriranno per incuria o per una mazzetta di euro in più? Se è vero che il destino è nelle nostre mani, che si faccia veramente qualcosa per cambiare quello di quanti è già inevitabilmente segnato o perlomeno che nessuno si riempia la bocca di mai più. C'è sempre chi parla, a volte, per riempirsi la bocca. Quella di Santoro è sempre stracolma di polemiche distruttive verso chi governa, verso chi si è fatto in quattro per affrontare un'emergenza così grave. Ma l'effetto boomerang è assicurato e, come si dice, chi di spada ferisce, di spada perisce. Speriamo per sempre. Come al solito è sempre da chi sta peggio che si impara. In questi giorni di tragedia, gli abruzzesi ci hanno insegnato che quando si ama la vita, c'è sempre spazio per la speranza, la voglia di ricominciare, la volontà di risollevarsi, anche quando l'imprevedibile ti toglie tutto, anche la vita di chi ami. A noi piagnucoloni, che da mesi ci lamentiamo della crisi mondiale, spaventati di perdere qualche soldo, terrorizzati da non poter cambiare con disinvoltura l'automobile, di rinunciare ad una settimana bianca. A noi, che a furia di parlarne abbiamo trasformato uno stop temporaneo dell'economia in una tragedia. In questa settimana ne abbiamo parlato molto meno, quasi ce ne siamo dimenticati. Forse abbiamo capito che le disgrazie sono altre. Giulia. Egregio signor direttore, pare che la Lega sostenga che possa essere strategico mandare a monte il referendum sulla legge elettorale per continuare il suo ruolo di forza determinante per far governare la destra. Io sono di parere opposto. Infatti, Berlusconi ha già detto in più riprese che della Lega tra breve non se ne farà più nulla e non ne avrà più bisogno. Ultima prova, la votazione contro le guardie padane, cui non è valso nemmeno il tentativo di salvataggio tentato da alcuni esponenti del partito dell'onorevole Di Pietro, Italia dei Valori, che si sono astenuti sulla votazione. Ma c'è molto di più. Al congresso di fondazione del nuovo partito di Berlusconi, PDL, lo stesso leader ha detto chiaro un messaggio per me rivolto solo alla Lega. Siamo al 51%. Non ha spiegato se di voti o di seggio o di altro. Già più volte, dal mio punto di vista, la Lega ha dimostrato nelle decisioni più importanti di essere il 52esimo voto, ossia quello inutile. Si veda per questo le sovvenzioni a Catania, al Comune di Roma, il salvataggio di Alitalia e non di Malpensa, una legge futura sul federalismo già superata dalla nuova società che si fonda sempre più sulla sussidiarietà orizzontale, eccetera, decisioni governative che non certo sono da volontà di Lega. Orbene, io penso che l'evoluzione di tale situazione per la Lega si prefigura con la fine dei partiti di sinistra che lo scorso anno furono messi fuori dalla coalizione con il Partito Democratico e oggi, giusto o meno che sia, hanno solo il diritto di dire in piazza e non al Parlamento le loro idee. Il sì al referendum, inoltre, costringerebbe i partiti a candidare persone e non a nominare chiunque che hanno legami con il territorio perché le stesse possano essere votate. Cosa di meglio vuole la Lega che vanta forti legami con il territorio nelle regioni del nord e non solo? Non solo, ma la legge elettorale attuale permette le candidature plurime delle stesse persone in più collegi e questo costruisce un sistema di vassalli, valvassini e valvassori, dipendenti dai re di Roma, ossia dal potere politico centrale. Questo metodo, comprensibile anche dall'attento cittadino qualunque della strada, è ben diverso dai principi e dai proclami che riportano i manifesti e le voci della Lega. Inoltre, 400-500 milioni di euro sono sprechi di denaro pubblico se il referendum non fosse svolto il 7 giugno 2009. E una dimostrazione di mala amministrazione sarebbe quella di chiedere ai cittadini di andare a votare due volte nello stesso mese, impegnando gli stessi per due domeniche anche con duplicazione inutile di proprie spese. Lettera firmata. Sinceramente, non capisco il tempo dedicato alle polemiche sulla trasmissione di Santoro. Ma vi sembrano interessanti? Il massimo, o il minimo, si è raggiunto quando Ritanna Armeni discettava sulla trasmissione dopo aver detto candidamente che non l'aveva vista. Non me ne importa niente di ciò che dice o fa Santoro. Lui e Travaglio sono prevedibili come vecchie zie acide, che magari fanno rimproveri giusti, ma che per la loro ripetitività e prevedibilità non vengono mai prese sul serio dai nipoti. Laura. Di fronte a così frequenti e numerose scosse telluriche antecedenti a quella delle ore 3:35 del 6 aprile in Abruzzo, protrattesi per mesi ed in fase di crescente intensità, mi chiedo: se ci fosse stato un presidio di protezione civile o di quant'altro sul posto all'Aquila e dai paesi circonvicini, dopo la scossa di mezzanotte e mezza del 6 aprile, si sarebbe potuta avvertire la popolazione di sgomberare le abitazioni, in quanto uomini esperti capaci sul posto certamente si sarebbero accorti che le scosse diventavano gradatamente più distruttive e pericolose. Come mai i sindaci, il prefetto, il questore, la polizia, i carabinieri, i sindacati e anche i parroci non hanno organizzato per tempo, presso siti esterni agli abitati e in previsione di possibili eventi gravi, prefabbricati contenenti tende, coperte ed anche apparecchiature, mappe ed istruzioni alla popolazione su dove riunirsi, su cosa fare e su chi chiamare in caso di crolli e tutti gli altri servizi che devono essere creati quando in una zona specifica e limitata avvengono così tante scosse telluriche? Perché non si chiede di ristabilire il suono della sirena di triste ma quanto mai utile memoria o d'altri sistemi, elettronici o umani, convincenti e penetranti, di avviso di calamità pubblica? Per il futuro, bisogna chiedere nelle zone ad alto rischio, dove non siano presenti presidi di protezione civile o di vigili del fuoco, la predisposizione fissa dei servizi idonei di soccorso e di avviso, poiché è meglio preservare anche una sola vita, piuttosto che intervenire il più presto possibile dopo il cataclisma. La mia rabbia deriva dalla considerazione che le autorità sono intervenute molto molto bene dopo i crolli, però non hanno saputo evitare l'altissimo numero di morti. Quanti altri territori sismici gravi ci sono ancora in Italia che lamentano le stesse carenze incredibili di strutture? Anna. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.